Ecco l'immortalati in uno speciale sull'alluvione realizzato da Franco Zeffirelli con la voce narrante di Richard Burton. Sono centinaia e centinaia i giovani e giovanissimi che dal momento del disastro hanno lavorato senza un momento di riposo a salvare la gente, i libri, le opere d'arte. Avete visto molte facce di cui non sapete il nome. Non sarebbe stato possibile identificarli tutti. Questi ragazzi andranno via come sono venuti e non sarà neppure possibile ringraziarli. Un impegno straordinario, insomma, fiorentini, italiani e stranieri al lavoro senza sosta per salvare la città e il suo inestimabile patrimonio artistico. E nel giro di poche settimane tutti questi sforzi producono i primi risultati. Di nuovo il professor Baldini, uno degli eroi del salvataggio delle opere d'arte. Si tratta di un primo intervento che permette, diciamo, di stabilizzare la situazione di questo specie di primo giorno per i quadri, ragion per cui poi essi avranno bisogno invece di essere tutti concentrati in un luogo apposito che si sta appunto apprestando in questi giorni, in modo che lì si possa compiere una specie di decelerazione di umidità, perché appunto bisogna che questi quadri perdano l'umidità molto molto lentamente. E quindi facemmo per 8 mesi questo lavoro di piano piano, di essiccazione lenta, comandata quasi direi, però in modo da permettere che le superfici non perdessero la pittura. Per i volumi e i giornali alluvionati della Biblioteca Nazionale si trova un rimedio originale. Vengono asciugati negli essiccatoi del tabacco di Città di Castello e ricomposti con pazienza certosina da centinaia di volontari. Dopo una storia di falsi, allarmi e inseguimenti rocamboleschi, anche l'avventura degli evasi finisce. Ma soprattutto, per i detenuti rimasti alle murate e protagonisti dell'eroico salvataggio di 2 bambini, arriva la grazia del Presidente della Repubblica. Alfredo Merlini, 26 anni, condannato per una serie di furti con scasso. Con lui altri 8 detenuti hanno lasciato ieri il carcere di Firenze, liberati con decreto del Capo dello Stato che ha concesso la grazia per il loro comportamento durante l'alluvione che ha colpito la città. Un altro lieto fine per quella che forse è stata la prova più difficile che Firenze abbia mai dovuto sopportare. I morti alla fine saranno 35. Nel giro di appena 1 mese e mezzo la città sarà di nuovo in piedi. Quei giorni e quelle ore resteranno per sempre un'esperienza indimenticabile. Un dramma che si è trasformato in un momento alto di unione e di crescita collettiva. Sara Funaro, assessora alla casa e alle politiche sociali del Comune di Firenze, nipote di Piero Bargellini, sindaco al tempo dell'alluvione. Sono passati 48 anni. In famiglia cosa le veniva raccontato di quel giorno, di quell'alluvione? I racconti più forti che mi sono rimasti, che venivano fatti in casa, erano tutti racconti che riguardavano praticamente la solidarietà che c'è stata in quel momento, sia da parte dei fiorentini e sia da parte delle persone, i famosi angeli del fango che sono venuti durante l'alluvione, ma soprattutto, questa è la cosa che più mi ha colpito, il racconto che è stato più forte in casa, il fatto degli aiuti economici che arrivavano da tutte le parti del mondo, a partire dal Sudafrica, da Kiev, dagli Stati Uniti d'America, dall'Etiopia addirittura, e un racconto che era quello che faceva sempre il nonno, che mia madre me l'ha riportato più volte, di tutta una serie di lettere che gli erano arrivate da dei bambini degli Stati Uniti d'America che si erano messi a fare dei lavoretti in casa, chi aiutando la nonna, chi aiutando la mamma, per raccogliere dei soldi che poi tutti insieme hanno mandato a Firenze a sostegno. Quindi una grandissima solidarietà per Firenze in tutto il mondo. La città come ricorda quel giorno? Allora, la città ad oggi ricorda quel giorno come un giorno tragico, ma nello stesso tempo, nei racconti delle persone andando a giro per le strade, come un l'inizio di un percorso straordinario, perché diciamo che i fiorentini hanno dimostrato in quell'occasione di essere capaci di rimboccarsi realmente le maniche e di non stare dietro alle varie polemiche, alle varie lamentele, ma a cercare di rimetterla in piedi, e questa è la cosa che rimane in maniera più forte. Ancora oggi, ma sì. Cosa è cambiato realmente rispetto a più di quasi 50 anni fa? Allora, lo spirito dei fiorentini per fortuna è rimasto lo stesso, e questo ci tengo a ribadirlo, nel senso che siamo... Noi fiorentini, io scherzando dico sempre che siamo molto molto critici, ma siamo anche quelli, come diceva mio nonno, è una frase che questa è rimasta ricorrente, quando siamo in punto di morte, tra virgolette, diciamo che ci sentiamo un po' male, perciò questo spirito è rimasto forte, perciò di fronte alle vere difficoltà si mettono da parte le polemiche e ci si rimbocca le maniche, perciò la solidarietà... Ma la città è più sicura? La città rispetto a quell'epoca è più sicura, quello sicuramente. Rispetto a questi temi chiaramente c'è un'evoluzione anche delle tecnologie, perciò c'è più controllo per quello che riguarda gli eventi di calamità naturale, poi ovviamente speriamo non riaccada, certo, questa certo, è chiaramente certo. La nostra speranza. Lei è assessore alla casa, uno dei temi più caldi in questo momento. Le faccio ascoltare cosa diceva un grande sindaco di Firenze, Giorgio Lapira, sulla casa, e poi lo commentiamo insieme. Il pane, e quindi il lavoro, è sacro. La casa è sacra. Non si tocca impunemente né l'uno né l'altra. Questo non è marxismo, è Vangelo. Cosa resta di questo pensiero di Lapira sul diritto alla casa oggi a Firenze? Io sono completamente in linea col pensiero di Lapira per quello che riguarda non solo la casa ma anche il pane e il lavoro, che diciamo che senza la casa e senza il lavoro la dignità stessa delle persone diventa chiaramente un problema. Ad oggi noi abbiamo una situazione su Firenze che è abbastanza critica, perché abbiamo centinaia di sfratti al mese. Le risposte da parte dell'amministrazione in questo momento sono chiaramente la ristrutturazione, la consegna di tutta una serie di alloggi popolari, ma sappiamo benissimo che oggi non bastano. Siamo in un momento che la crisi economica è sempre più forte. E come vi comportate? E noi abbiamo già iniziato, chiaramente il tempo è poco perché sono 6-7 mesi di mandato in cui abbiamo iniziato, però abbiamo già iniziato a portare avanti tutta una serie di azioni e per dare risposte anche alternative alle alloggi popolari, perché negli alloggi popolari ci possono andare alcune persone, ma c'è quella fascia che io chiamo ora quella delle nuove povertà, che non è detto che poi riesca ad accedere a quello. E stiamo portando avanti delle politiche che diano soluzioni alternative, a partire da forme di housing sociale, alla programmazione, stiamo cercando di vedere sul territorio se riusciamo a trovare varie... Insomma, la linea sugli sfratti è dura o no? No, la linea sugli sfratti, chiaramente non siamo noi come amministrazione comunale che eseguiamo gli sfratti, ma è l'ufficiale giudiziario. Noi quando ci sono situazioni che chiaramente dobbiamo prendere in carico, perciò situazioni di disagio, noi ci muoviamo. Siamo uno dei pochi comuni che abbiamo restituito la commissione per il disagio abitativo che si incontra tutti i mesi, nelle quali vengono analizzate tutte le varie domande delle persone che sono sotto esecuzione di sfratto e vengono dati dei contributi, quei famosi contributi per la morosità incolpevole, e con i quali viene rinviato lo sfratto a un momento successivo e c'è la possibilità perciò di dare un momento di boccata d'ossigeno. Però io una cosa che ci tengo a dire, non solo per l'inquilino ma anche per i proprietari, perché a noi ci arrivano, e questa è la cosa che mi impressiona di più, un sacco di richieste, di lamentele da parte di proprietari che spesso magari sono proprietari di quell'unica casa, che quell'affitto gli serve per andare avanti, per pagarsi la residenza sanitaria o per pagarsi le spese per poter vivere, e si ritrovano anche loro in un momento di grande difficoltà. Certo. Grazie Sara Funaro. Niente, grazie a lei.